sente molto, però poi quando metti i microfoni adatti, cioè non è molto, mi da un terzo a metà, non è come aprire tutto il trimmer, capito Nathalie? A orecchio ben poco si sente. Prova anche un più di metà. Adesso Nathalie, visto, fai una cosa, tanto lo puoi riportare benissimo a metà, metti tutto in senso orario, tutto a destra, per curiosità, vedrai la differenza. Allora, era tutto a manetta, adesso c'ho l'MB più 4 a metà, abbassato di molto. Ah, adesso sì, cioè era a manetta prima. Ma adesso è a metà. Adesso è a metà, ecco, così è a metà. Cosa ti volevo dire? Io l'ho trovato già a manetta quello lì. Come? Era già in senso orario, tutto a destra? Sì, era a manetta. Ma allora quello l'ha fatto il venditore? Evidentemente sì, anche se non gli ho detto niente io. Me l'hanno mandato così. Boh, già a me c'è qualcosa che non mi torna però. Dovrebbe spingere di più con l'MB più 4, molto di più. C'era già a manetta. Sì, guarda, adesso lo rimetto a manetta. Ma non sta andando. Ma Nathalie, mica sia quello mi VR, aspetta che ce l'ho qua. AM Mod, non sbagliare. Ehi, adesso l'ho rimesso a manetta, guarda. Guarda, avrei fatto la stessa prova. Allora pongo la batteria e vi faccio sentire il 3009 a metà in presa diretta, il 3009 col trimmer a manetta, li metto uno sopra l'altro. Aspetta un attimo, adesso è a manetta, guarda un po', aumentato. Sì, ma sei tornato praticamente alla posizione iniziale e comunque l'MB più 4 vuole messo a manetta, il microfono vuole messo a manetta e non spinge più di tanto, ma la batteria è buona, è carica. Il microfono è a manetta adesso va bene. Bene, però sempre senza essere eccessivo, capito Nathalie? È come sempre se ci fosse un collo di bottiglia. Qua il trimmer è a manetta. Vabbè, intervengo io, scusate. Ma una prova proprio stupida, provare praticamente tutto verso destra e poi provare tutto verso sinistra per vedere se cambia qualcosa. No, era già a manetta, era, quando io l'ho visto, era già a manetta questo trimmer, capito? È a manetta, Adesso prova a chiuderlo tutto a sinistra, Nathalie, giusto per vedere cosa succede. Adesso è chiuso tutto quanto. Sì, c'è un leggero cambiamento, si è abbassata. Comunque tutta manetta non è che guadagni chissà che cosa, eh. Ehi, no, è il microfono allora che non amplifica, là. Allora Gianni, orecchiometro, Natalino, Gianni l'altro, orecchiometro, questo è sempre il 3009 con trimmer a metà, microfono a metà, non è l'MB più 4, è sempre il KPO, non riprendete, tenete la mente. Gianni, adesso bene vada la modulazione. Oh, allora questo è l'altro 3009, stessa distanza dal mic, questo è al trimmer tutto a manetta, l'altro 3009 con trimmer a manetta, microfono sempre a metà, c'è una differenza, sì? Pompa di più questo, a voglia. Avevo il volume anche a zero, scusate, ho capito solo a voglia. Aspetta che mi si stanno chiudendo le orecchie, mamma mia, che cosa brutta, scusate un attimo. Il secondo pompa di più. Conta che questo non è l'MB più 4 che ha Natalino, però può darsi che sia quell'MB più 4 che non pompa molto. Adesso una domanda per Natalino. Natalino, quell'MB più 4 è originale o ha quella modifica per uscire più forte? No, modifica non ne ha questo. Magari è per quello, dai. Comunque la timbrica, la fedeltà di modulazione è eccezionale, amico, l'MB più 4. Tu basta che lo metti a manetta e c'hai una voce effetto presenza. Cappa. Va così a manetta, 1, 2, 3, prova. Questo è l'MB più 4 a manetta. a me piace molto, più delle, dell'altro, perché l'altro è metallico, poi de gustibus, vai profeta. Ehi, confermo, poi bisogna vedere Natalino a quale distanza parla davanti al microfono. La conta portoghese, eh? E saranno una trentina di centimetri. Marco, va, Natalì, sai che va bene quel microfono che abbiamo preso lì a Marco, quello che ha preso a me? Perché non ti venisci a provarlo? E già va bene questo qui, c'è anche il Turner. Il Turner vedi che amplifica, e questo microfono perché è normale che non amplifica nulla. È per quello, La modifica ne l'avevo tolta io da qua. Ma è meglio con la modifica, c'è più forte. E vabbè, ma già va bene anche così, dai, questo qui. Adesso ti faccio sentire il Turner. Gianni. Nel frattempo mettiamo a manetta tutto. Senti come pompa il pippero. Pompa, si sente l'elicottero. È passato qua adesso. Gianni. Quale? Lo profetta. Poi. Questo è il Turner, guarda. A metà sempre. Boh, è che c'è il cervello in brodo oggi. Va bene, dai, no. Non è da bombardamento, però già va bene. Guarda adesso, a bombarda. Adesso un po' di più, dai. Ma io facciamo venire il mal di testa a Gianni, più di quanto non ce l'abbia. Era già a manetta il trimmer, non bisogna toccarla oltre. È così. Ho detto, con questi microfoni faremo venire il mal di testa a Gianni più di quanto non ce l'ha. Ne sa di sì. Qua c'è dei picchi notevoli, Guarda che parli così, che parli tutto lontano dal mic, vedo picchi notevoli. Ed è tutto a manetta adesso. 2009, trimmer aperto, vabbè, sempre lo stesso discorso, siamo sempre lì. No, che strano che il tuo era già aperto, quindi tu inconsapevolmente in teoria era quasi disomologato l'apparecchio, lì non è sia molto forte, però il venditore le cose le dovrebbe dire se le tocca. Infatti a me non mi hanno detto niente com'era, Io non lo so perché non l'ho mai aperto, Marco, non so cosa dirti, però mi sembra strano, che lo metta la manetta. Ora si pure che l'abbiano messo di fabbrica mia manetta. Te l'ho detto che sono tutti questi qua proprio della Ranger Malesia, li buttavano fuori a cacchio di cane, tutti regolati a caso, dai, diciamo, a caso, a formaggio. Se non dire amica di seguito. Ciao, Beh, esatto. Vado a sciocarmi la faccia, là, rientro tra poco. Da, abbassiamo un po', ecco. Comunque il 3009, non lo so, è sempre il prediletto, tutto cromato, tutto luminoso, luccicante. Sì, è bello. Blu non l'ho trovato io, ho trovato il rosso, con gli spilli rosso. E vabbè, comunque è bello lo stesso. Sì, poi questo l'ho preso tanti anni fa, cioè io sono entrato nel 2010, penso di averlo preso nel 2000, tipo 2013-2014 col display blu, poi se li sono presi tutti e non li hanno più rifatti. Poi di questi ho pure il frequenzimetro esterno, il famoso frequenzimetro esterno a luce blu. È bellino. Perché allora lo facevano in base all'apparato, no? Quando è uscito col display blu hanno fatto il frequenzimetro blu, quando c'era il display rosso l'avevano fatto rosso, addirittura c'era una versione con le cifre verdi, però non so se fosse fatto in casa. Ecco, sai cos'era la cosa che avrei voluto? Avrei voluto un 3009 col display dei canali a cifre verdi, perché è diverso da tutti gli altri, diverso, capito? Sì, io avevo il coso, l'Intec, con le cose verdi. Infatti ero andato molto vicino anni fa a comprare il terzo 3009, poi mi ordino i pezzi, o me lo faccio fare, purché abbia il display verde. Poi ho detto, vabbè, non esageriamo, poi per la 27 non è che ne valga tanto la pena. c'ho più apparecchi che capelli, gira gira. E vabbè, noi moduliamo sulla 27, sulla 27 spendiamo. C'è poco la fotografia questa che utilizziamo. Adesso amico, l'infornata di radiatore che ne esce, la 27 si svuota, parliamo col muro. E chi se ne frega, facciamo con la propagazione di Esbu. Già entrerà qualcuno sempre, diciamo che anche quelli che sono gli amatori ogni tanto ci fanno cucù. Sì, Natalino ha detto che ogni tanto entrerà, insomma, e se no pazienza, cioè, vediamo se Gianni si è sciolto la faccia, cosa che farò io a breve, molto breve, anche i capelli mi lavo, tutto, la testa immersione. Oh, io mi sono fatto la luce, ho preso che non se l'avevo sudato, Sì, è vero, cioè fai la doccia, ti asciughi e hai di nuovo caldo, forse anche di più di prima, perché ti hai rifatto la temperatura fresca, no? Ti ha dato ristoro, poi però ti ritorna il caldo ed è peggio. Sarebbe bello stare nella vasca immersa d'acqua a modulare. No, lo sai cos'è, bisognerebbe le cose di farsene in acqua più calda, in modo che tu quando esci ti senti fresco, invece così facendo un'acqua fredda fa quello che hai detto tu. Bene, io cedo il passo, vado a bere, c'ho sete, c'ho caldo, c'ho tutto, c'ho anche le palle sudate, se lo volete sapere. Lo so, stare chiusi in casa è brutto. Non mi piace uscire con questo caldo, esco giusto per la spesa, per commissioni. Avevamo una bolletta improrogabile ieri che andava pagata, se no troppo caldo, che poi il mio non è un caldo normale, te l'ho detto io, è una cosa terribile, dopo questa cosa ormonale è diventata una tortura per me l'estate. Una vera tortura. Bene, Gianni, sei rientrato? Eccomi, oi. Non tirare un filo d'aria a casa, no? Per carità. Allora, mi hai dato il cambio, vado a sciacquarmi io la faccia e la testa. Bianco per me. Io vi saluto, là. Ciao a tutti. Ciao già, alla prossima. Io desideravo le visioni. Rinandelli? Vabbè, là. Io me l'ho portato attorno all'omologazione, così almeno sono sicuro e tranquillo, puro e sano. Bene, bene, da. Proia. Non tira proprio un filo d'aria, cazzarone. Ma te lo puoi immaginare già, che sto chiudendo la situazione qua. Sto piazzando la staffa adesso. L'ho riportato all'omologazione, che non si sa mai, che a me mi hanno preso di mira e voglio essere in regola. Capito? Hai fatto bene. E che ratto? Hola, hola, ma era giusto, dice. Ma è a manetta, ma è fuzza. L'avevo messo a manetta, ma già si vede pompa di più dell'MB più 4. Caspita, di più, di più. Il turner pompa di più. Boh. Eppure andata lì. Allora io ho il più 5, no? Di serie. Quando lo metto a 10 dicono che è troppo forte su questo apparato, quindi questo bello libero, no? Troppo forte, dicono di abbassare e metterlo a 5 o a 6 massimo. Vuol dire che c'ha la modifica il tuo, il mio non è a... No, ma ho detto che è originale, l'avevo preso da Fusaro nuovo e non l'ho mai toccato. A meno che qualcuno, siccome lì restituiscono roba a mano messa, come certe saldature mi ricordo, qualcuno non l'abbia comprato, non l'abbia provato, modificato, non era soddisfatto e non l'abbia reso. Cosa vuoi che ti dica, Marco? Che vuoi che ti dica? Adesso chiudo questa scatola, se no no, mi veniva raggiunto, che cosa fatto. L'ho riportato alla normalità, Marco, non mi fidavo, l'ho fatto andare così un paio di giorni, proprio per non dire che non l'ho mai usato nelle altre funzionalità, diciamo così. È meglio sempre ogni tanto sbloccarlo e poi ribloccarlo. Tanto questo è omologato, lo lascio così e boh. Ok. Oh, funziona anche il tastino per togliere il bip, Nathalie. E dove? Guarda bene, è uno dei tastini, è una funzione speciale. Del 3009. Perché il bip ancora ce l'ho. No, tu no. Sto scherzando, ho cambiato banda. Cambio la banda, mi col selettore. Ho capito, per quello. I vecchi trucchetti. E però a me non mi funziona più il selettore. No, a te non può funzionare perché ce l'hai 40 canali. Quella è versione 40, questo no. Questo display rosso no. Purtroppo. E mi dispiace perché non posso andare nella banda di su. Se lo fai con quello dei canali si sente il bip di splatter, mi guarda, io faccio così. Vabbè, comunque ogni tanto sarebbe bene muovere il jumper appunto e fare lavorare le bande alte, abilitare tutte quelle alte e basse in modo che ne so, si ricarichino con i saturini, quello che è, e poi lo riporti in posizione 40 canali omologati, e così farò io col blu, l'ho già fatto in realtà. E infatti l'ho riportato normale adesso, non mi fido, adesso lascio passare un po' di tempo, se non viene nessuno lo sblocco, se no no. Mamma mia, una domenica infinita, non passava più oggi, una cosa allucinante. E anche qua non tira un filo d'aria, nonostante la ventola soffitta, a soffitto, sento l'aria ferma, immobile. Gianni, c'è ancora, riprendi. Eia. Poi ho aperto le finestre per fare un po' di ricircolo d'aria, ma non si muove foglia proprio. Figurati se mi viene in mente di attaccare qualcosa. Oi, per carità. Ieri ho sudato, cazzo, sembravo, cioè lenzuolo che sembrava la sindrome, cazzo. Ottimo, però fa 2000 anni farà qualcosa di stagno. La sindrome del profeta. Yeah. E sigare però, bicio. E te, venerdì me lo faccio dire come si chiama, che adesso non ce l'ho, non me lo ricordo. E così te lo fai, tu che ti conosci comunque. Va bene. Dai, fammi sapere appena puoi. Vabbè, al tempo, insomma, ci si conosceva un po' tutti in quell'ambiente. Infatti, c'è un amico mio che lavorava così, gli ho detto. Infatti mi ha detto il soprannome, mi ha detto, e quindi eri tu, perché il cognome tuo non lo sapevo, la verità. Questa è una cosa, serve il soprannome. Gioia. Non so se riempirmi la maschera a bagno d'acqua e buttarmici dentro, ma dopo il trauma, cazzo, forse peggiora le cose. Bene, no, che ti innaffio con l'eva di robotto che è fredda. Ciao, cara. Quella fresca, io ce l'ho qua fresca del botto, ti innaffio con quella, ti sia a posto. Gioia. Sono tutto a dolore, inchiodato nel letto, cazzo. E non tira un filo d'aria. No, qua in altura ci sta bene. Fuori c'è un bel freschetto, un vento, non so se è maestrale, però ci sta bene. Beato te. A noi ci fumano le teste, tutte e due. E voi siete in città, io sono in alto e quindi c'è vento fresco, bello. Io faccio fame, io ti sono usciti, boh. Ancora c'è ancora. No, c'è un cancello che sono tutti fuori. Oh, io... Che serata. Va bene. Io quasi quasi stacco, sono arrivato ai minimi termini. Ci sentiamo quando e se sopravvivrò al caldo. È martedì e mercoledì. Arriva una bella sferzata di caldo. Sì, è l'ultima ondata di questo ciclone africano. Sembra che martedì e mercoledì tocchiamo punte anche di 40. Vabbè. Va bene che va bene. E allora, come dice Gianni Lobrefetta, pompa dell'acqua fresca e su che andiamo. Una baciata di cornicione e vamos alla playa. E vamos a Antrella. Tu già paghiscio, ma tieniti vecchio, tieni sempre a bagno il cornicione. E se no andare all'asino della crucca, vedrai che ci passa tutto. Oia, mamma mia. E ci vado a scioccarmi la faccia, dai. Vengo subito. Sembra che stavi andando a dare un scioccato al cornicione. Bagnati il cornicione che fa bene. Il cornicione. E allora, vuole sempre a bagno quello. Scusa, quando piove, la prima cosa che si bagna da una casa è il cornicione, scusa. Non si crede questo, no? Quando piove, io vedo qua subito il cornicione, sto bagnato, poi scende a terra, però si bagna subito. Ah, si gocciola proprio dal cornicione lì. Certo. L'inghippo è quello, bisogna tenere sempre umido il cornicione. Vedrai, c'è sempre fresco. Mica c'è Nord Italia sta chiamando. Avanti Nord Italia per la città di Sassari, nord della Sardegna. QRZ. Sì, adesso si è abbassato. Udine. Ho capito solo Udine. Qual è il tuo nome, Udine? Qual è il tuo nome? Ah, sì, ciao. Alessandro. Sì, Ariete, qual è Alessandro? Ciao Alessandro, buonasera, Claudio Sparviero da Sassari, in compagnia di Natalino e di Marco. Vediamo un po' chi ti ha ascoltato. Ciao Alessandro, Natalino Alfa 1 da Sassari. Avanti Marco. Marco, hai ascoltato Alessandro da Udine? No, Marco si è emozionato, Alessandro è caduto dalla sedia, avanti. Sì, quel sede, l'ultimo che ho rilanciato è Natalino, te lo rilancio, io sono Claudio. Avanti, Natale. Però la propagazione c'è cioè, QSB, si alza e si abbassa. Alessandro, come sei entrato ti ho sentito benissimo, Non so come sto arrivando lì a Udine. Avanti ancora a te Alessandro. Sì, scusa Claudio, se mi confondo io con i nomi. Sì, scusa Natalino. No, mi arrivi tu, se facciamo molto bene, dai. Scendo anche in AM qua, non è male. Vai Claudio. Sì, qua c'è Alessandro, io sto andando con una ventina di watt, la radio è un 140, MC60 al microfono. Sempre tutto abbinamento Kenwood, linea Kenwood, insomma sono radioamatore, quindi uso un po' queste apparecchiature anche in ampiezza modulata, va bene, ottimo segnale anche per te, mi hai fatto 5-9 adesso, va bene, però come ha detto Natale c'è molto QSB, però insomma riusciamo a capirci, molto bene. Vediamo un po' se è rientrato Marco. Negativo, me l'hanno coperto poco fa l'amico di Udine, quanto è che arrivavo io lì? 7-8 ha detto, ottimo segnale, vai benissimo. E con 4 watt, figurati, anche più di 4 non era questo. E figurati, 7-8 con 4 watt, io sto andando con 20, io sono leggermente più alto di te, ma vai bene lo stesso, Matta, vai bene, l'antenna funziona, non ti preoccupare, funziona tutto. Vai Alessandro, tu me l'hanno coperto. Anche a me me l'hanno coperto, capito. Sento le prime parole, poi arrivano le botte di propagazione e te lo coprono, capito? Alessandro, se mi copri non arrivi più, ti coprono gli spagnoli. Ti coprono gli spagnoli, Alessandro, ti coprono gli spagnoli, arrivano più forte di te. Non ho capito il QTC. Ah, ok, ho detto che copri adesso. Ho capito 599, non ho capito Alessandro, che baracchino stai usando il 599, cos'è? Il McKinley? No, c'era un altro freco. numero c'è tu, Marco? Sì, è il 9009 CRT, è il più potente. Mi ascolti l'amico di Udine, Marco, in questo passaggio, vedi un po' se arrivo. Sì, eccomi, ho ascoltato un altro sotto. Sì, Marco, ti ascolto, Santiago 7 Radio 5 in questo momento, farei entrare tu se non ti preoccupavo. Cappa, io faccio entrare la tua break, avanti, avanti con la zona, qui Sassari, Sardegna. Molto, molto basso. Oh. Non capisco, i segnali sono troppo, cambia troppo repentinamente il segnale, Claudio, è troppo QSB, troppo rapido, non appare e scompare il segnale. Lo so, preparazione un po' balorda. Mi devo allontanare, è arrivata la truppa, ragazzi, devo andare a aprire il cancello. Ciao Alessandro, ciao a tutti, ci sentiamo, ciao, un abbraccio a tutti, vai Natalino. Non sei uscito, Natalino, tu sei? Io è. Scarica di portante adesso, metà scarica, metà portante. Boh, adesso mi segna, sto uscendo. Ma no, arrivo ora? Ora sì, chi sei, avanti, nome, cognome, codice fiscale. Sempre conosciamo qua, cosa di imbarrabile, ciao Marco. Tino, tu sei, col casino che c'è non riuscivo a capire che eri tu. Allora adesso sta arrivando, 7:30 di segnale, 7:30, baramobile hai detto, sì, dove? Eia, quindi vabbè, il segnale sale e scende, io sto utilizzando il 3009 e un cinquantinaio di watt, cinquantinaio, una cinquantina. Ok, ciao T, mi hai sentito, sentiamo in migliore occasione che c'è a Bulotto di fondo, Vediamo se Natalino ha risolto, Natalino forse il PTT, non lo so, no, anche questo un po' fa appena appena di scarichette, col PTT, niente, fischia, niente. Magari non ho schiacciato bene il PTT, mi capito là, perché questo ha le lamelle, di quelli vecchi. Devi schiacciare bene, bisogna sempre schiacciare. Lo so, purtroppo mi ha fatto questo difetto. Mi quel ronzio forte. Quale ronzio? Lo senti di propagazione? No, adesso non ho sentito nulla. Minchia che caldo, cosa devo fare? Farmi doccia ogni 10 minuti, poi di nuovo caldo dopo 5 minuti. Vediamo se il profeta è rientrato, così ci salutiamo, mi sa che cerchiamo un refrigerio dentro il frigo, dentro il pozzetto. Il pozzetto sarebbe meglio. Gianni, ci sei? Sì, adesso ho sentito quello che hai detto tu. Sì, è come una specie di peggio dell'alternato, una specie di una pernacchia elettronica, me. Infatti. E poco fa mi coprivano l'amico di Udine, la propagazione, un macello. Sì, anche perché c'era un punto, c'era un momento in cui quell'amico di Udine, pare Alessandro, è arrivato anche a Santiago 8 qua, però te l'ho detto il segnale, sale e scende, questo è B, niente da fare. Purtroppo quando è così non c'è nulla da fare. È fisso, Sì, in più c'è uno in FM sotto, in FM che sta decollando di segnale. Va bene, che schifo di estate che ci aspetta, per carità. Ma per carità veramente. Attento Gianni il profeta, ci si, cambio. Oh yeah. C'è un amore sotto i tacchi, dai, no, sto goduto a durove, la gana scarseggia, dai. A me mi sa che stai diventando vecchio, catta peggio di me tu. E cosa ci vuoi fare? Cazzo, no, non tira un filo d'aria a casa, non posso neanche accendere neanche il ventilatore, si sa mai me ne fare un raio come ti rimane. Boh, cazzo, sto veramente impazzendo qua. No, non mi accendere, no, sa chi, guarda. Si sta già pizzicando la cabicina. Quell'antenna, oltre che il battesimo dell'aria, si è passata al battesimo del fuoco. Gioia, per carità. E adesso quando mi ripiglio, ne l'accendo. E ci ce la, e ci rimettiamo, quella che c'era prima. Via. Sì, via. Va bene. Oh, signori, sono le 9 peraltro, io quasi quasi mi accendo un po' di TV, devo anche ritirare la roba stesa. E quindi vi saluto, ciao Claudio se sei ancora all'ascolto. È entrato Tina a salutare lontano dal Ghero, per fortuna l'ho tirato fuori. Ciao Gianni, Natalino, tutti gli ascoltoni, dai, ci sentiamo in più fresche occasioni, speriamo. Ciao a tutti, buon Natale. Ciao Marco, va, buon proseguo di serata. Anche ciao Marco. Me ne passo in quel RT, ciao Gianni. E riguarda, ci sentiamo alle prossime. Ciao, dai. Stacco anch'io perché no, non c'ho pazienza. Sto governando la scuola tra la cameretta e il bagno per un po' di refrigerio, ma asciutto subito, cioè. Va bene, dai, buona serata a tutti, alle prossime. Ciao Gianni.